Il cacciatore di libri. Prima puntata del Cacciatore di Libri in questa nuova collocazione oraria. D'ora in poi la rubrica dedicata alle novità editoriali e alle interviste con gli scrittori andrà in onda ogni sabato dopo il GR delle 21. Oggi parliamo dell'ultimo libro di Harry De Luca, Il peso della farfalla, pubblicato da Feltrinelli. Non è un romanzo, piuttosto un lungo racconto, circa 70 pagine. È uscito alla fine del 2009 ed è ancora ai vertici delle classifiche di vendita. Con uno stile poetico, De Luca racconta la storia di due personaggi, ognuno dei quali è considerato un re nel proprio mondo. Da una parte un cacciatore, dall'altra un camoscio. Tutto gira intorno ad un incontro fra i due a lungo rinviato. Lo scenario è naturalmente la montagna, montagna tanto amata dallo scrittore, che così descrive i due protagonisti. Sono sì un cacciatore, ma solitario, non di quelli che fanno battute di caccia in compagnia, e che si trova intorno ai suoi 60 anni con un sentimento di essere alle ultime stagioni della sua esperienza, della sua vita all'aria aperta. È un camoscio che è stato un capo branco, ma i camosci sono abbastanza solitari, fanno vita abbastanza solitaria per la gran parte dell'anno. È stato un capo branco ed è anche lui all'ultima stagione di supremazia nel suo ambiente. Intorno c'è una natura di montagna in cui l'essere umano è insignificante dal punto di vista proprio numerico. È scarso. Io a me piace andare in montagna, scalare, praticare alpinismo, perché là riesco a vedere il mondo così come era senza di noi. In genere i cacciatori non sono una figura politically correct, così per usare un termine molto, molto in uso. Questo, che è poi il protagonista del suo racconto, è però un cacciatore che ha delle regole ben precise, per esempio quella di non sparare mai agli stambecchi. Sì, non spara agli stambecchi, non bisogna sparare alle femmine, non bisogna abbattere la bestia con un colpo solo. Insomma, c'ha delle regole di comportamento che erano regole abbastanza diffuse nell'ambiente quando si andava a cacciare per procurarsi quel cibo in più, quella proteina in più che mancava alla vita quotidiana, povera, delle valli. Quindi sì, il cacciatore è stata una figura nobile della nostra specie vivente. Siamo stati dei bravi cacciatori e anche dei bravi raccoglitori e dei bravi agricoltori. Faceva parte del procurarsi il necessario. Oggi è un hobby che distrugge vite senza nessun tornaconto, è semplicemente lo sfizio di abbattere. Lei è un grande esperto di scritture sacre, noto, nello stesso tempo si dichiara non credente. Che cosa l'affascina nelle sacre scritture? Ma intanto non sono un esperto, sono semplicemente uno che le frequento tutti i giorni, leggo quelle storie dell'Antico Testamento nella loro lingua madre, cioè l'ebraico antico, e mi sono così procurato una specie di intimità con quell'origine. Quello che mi interessa di quelle storie è che lì, in quelle storie, in quella lingua, si è fondato il monoteismo, la notizia del Dio unico, che è una notizia che alla base della quale sta tutta la nostra civiltà religiosa, non solo, ma c'è alla base della quale c'è tutta la distruzione della civiltà teologica precedente, del politeismo. E il politeismo nel Mediterraneo ha trovato la sua massima fioritura in tutta la storia del mondo. Non ci sono mai state tante divinità e tanti culti assortiti in poco spazio come dentro il Mediterraneo. Dunque questa notizia del monoteismo aveva questa forza di impianto ma anche di espianto. Contiene una energia dentro che mi attira, sì, senza dover per forza approdare alla fede o a rivolgermi alla divinità con qualche mia richiesta. Che rapporto ha lei con la scrittura? Scrive in particolari momenti del giorno, ha bisogno di un'ispirazione, ha dei vezzi legati alla scrittura? Intanto scrivo a mano, su quaderni a righe. Ci vogliono le righe, se no vado storto. E non vanno bene i quadretti, perché i quadretti somigliano a sbarre e non mi piace. Il secolo 1900 da cui vengo è stato il secolo che ha incarcerato dietro sbarre e quadrettature di ferro il numero maggiore di vite umane. E poi scrivo mai su un tavolino o a una scrivania, sempre sulle ginocchia. E l'ora preferibilmente è quella prima di giorno. Ma come le nasce l'idea di un romanzo, di un racconto? Dunque, di solito da un soprassalto di memoria, ed ecco perché riesco a scrivere solo storie accadute, trascorse, e storie in cui non devo inventare personaggi. Approfitto dell'abbondanza di vita conosciuta, di persone che ho incontrato, della mia vita stessa, insomma. E dunque racconto un dettaglio del passato che improvvisamente ricordo. Ecco, il soprassalto del ricordo è una miccia per me, è un innesco per aver voglia di scrivere, e cioè di stare poi con quelle persone, con quella storia per un po'. E questo era Harry De Luca in libreria con Il peso della farfalla, pubblicato da Feltrinelli. Paloma non è una ragazzina qualunque. È una decisione ben ponderata. Il giorno dei miei 12 anni, io mi suiciderò. Anche René non è come sembra. Madame Michelle mi fa pensare a un riccio, una vera fortezza. Ma ho l'impressione che all'interno sia raffinata come quelle bestioline falsamente indolenti. Questo che state sentendo è il trailer del film Il Riccio, uscito da poco in Italia. È la versione cinematografica tanto attesa del bestseller L'eleganza del riccio, della francese Muriel Barberi. Lei, l'autrice, ha preso subito le distanze dal film e sottolinea sempre che film e libro sono due cose totalmente diverse. Il romanzo, pubblicato in Italia nel 2007 per EO, è stato un successo mondiale, dovuto soprattutto al passaparola. Tutto gira intorno ai personaggi che abitano un condominio parigino, due le protagoniste, una portinaia, René, che fa finta di essere sciatta e poco colta, ma che in realtà è tutt'altro. E poi c'è una ragazzina che vuole organizzare il suo suicidio. Ma a chi si è ispirata Muriel Barberi per descrivere questi due personaggi? Sentiamola. A persone. A nessuno, è tutto completamente inventato. La cosa bella nei romanzi è proprio questa: inventare di sana pianta un personaggio nuovo. Com'è nata l'idea della trama? In realtà non c'è una trama importante nel romanzo, è una successione di pensieri. Ho pensato solo al personaggio della portinaia erudita. René e Paloma hanno qualcosa in comune: entrambe fanno finta di essere quello che non sono. È questo che le lega in fondo. Sì, ma me ne sono resa conto solo dopo. Anche nel mio primo romanzo c'è un personaggio molto solo che porta delle maschere e che non si fa vedere. Mi sono resa conto che ho scritto due romanzi sulla solitudine, ma in qualche modo nel secondo romanzo i personaggi escono da questa solitudine. L'eleganza del riccio ha avuto un successo straordinario in tutto il mondo. Domanda banale ma necessaria. Si aspettava tutto questo successo dato soprattutto dal passaparola? Assolutamente no. E più il tempo passa, più sono perplessa di questo incredibile successo. Quanto le pesa questo grande successo nel suo lavoro di scrittrice ora? Insomma, ha un po' di ansia da prestazione per le cose che sta scrivendo? Assolutamente no, non mi pesa. Ora ho il tempo e posso scrivere lentamente, secondo il mio ritmo e senza pressioni dall'esterno. Ho scritto il secondo romanzo, L'eleganza del riccio, pensando che nessuno l'avrebbe letto, ed ero libera di farlo. Adesso sono ancora più libera e posso scrivere quello che voglio, quando voglio. Insomma, si sopravvive bene ad un bestseller. Estremamente bene. E questa era Muriel Barberi, autrice di L'eleganza del riccio, pubblicato da EO. Prima di chiudere, vi ricordiamo che d'ora in poi il Cacciatore di Libri andrà in onda il sabato dopo il GR delle 21. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.